versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Qui Oscar vi saluta dagli studi di Milano della radio e vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per segnalare temi o per proporvi direttamente per una testimonianza su un tema ovviamente che deve essere rilevante non solo per la vostra vita privata. E vado subito al tema della trasmissione, riguarda soprattutto coloro che sono in difficoltà nei piani di pagamento pluriennale ovviamente dei mutui o dei prestiti alle banche e che sono nelle condizioni di essere ammessi ai programmi di sospensione e rateazione straordinaria per quello che dovete alle banche, appunto per un mutuo o per un prestito, e magari però vi trovate nelle condizioni di essere sottoposti a degli oneri aggiuntivi che le banche vi chiedano di corrispondere per essere ammessi a questo beneficio, che è un beneficio di legge e che è stato anche ribadito in un articolo, in una norma inserita nella legge di stabilità approvata a fine 2014 che vale per il 2015. Quindi se siete in queste condizioni o conoscete chi è in queste condizioni o se per caso lavorate in una banca e avete a che fare con questo tipo di pratiche e volete raccontarci la vostra esperienza, questa è la giornata giusta e il numero di telefono è 800 24 00 24, 349 238 66 66. Noi oggi siamo in attesa del documento economico finanziario, però non potremo commentare oggi perché il Consiglio dei Ministri stamattina ha solo nominato il nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il professor De Vicenti, al posto di Graziano Del Rio, perché il Presidente del Consiglio ha rinviato a stasera alle 20 il Consiglio dei Ministri per il DEF. E la cosa singolare, ma lo vedremo, lo commenteremo solo col testo e lo commenteremo domani dalle 10 alle 12, mi raccomando, in diretta ai Conti della Bella, sempre qui su Radio 24, è che il Presidente del Consiglio avrebbe chiesto questa sospensione perché ha bisogno di un paio di miliardi almeno da annunciare per decreto, visto che si vota alle regionali tra poche settimane, e quindi bisogna vedere che cosa cambiano perché c'è bisogno di un bonus elettorale. Comunque queste sono le interpretazioni, le maldicenze dei giornalisti, ma è molto singolare che questo documento programmatico, che è già uscito, cioè lo trovate sul sito della Stampa nel testo integrale, venga ritardato e rimodificato perché il Presidente del Consiglio ha bisogno di un bonus elettorale. Poi magari, se non sarà così, domani mattina commenteremo, ma intanto occupiamoci di questa questione che riguarda molte migliaia di italiani che sono in difficoltà con il loro reddito. Che cosa è successo? È successo che per una volta, noi qui spesso parliamo male della politica, dei partiti e così via, per una volta, e bisogna darne atto pubblicamente, un partito si è preso a cuore esattamente il fatto che sia applicata subito la norma prevista in legge di stabilità che riguarda appunto le migliaia di italiani che sono in difficoltà per il pagamento pluriennale di mutui o prestiti alle banche, e allora ha preso un'iniziativa per sollecitare il MEF e per sollecitare l'ABI, cioè l'Associazione delle Banche Italiane, cioè ha incontrato molte sigle che rappresentano i consumatori, i cittadini italiani, ha fatto una specie di tavolo tecnico per fare il punto della situazione e per sollecitare l'immediata attuazione senza nessun tipo di fregatura che spesso, come sapete, si cela quando le banche sono obbligate ad azzerare le commissioni e magari le reintroducono dalla finestra, e ha preso questa iniziativa. Ecco, la trasmissione è fatta proprio prendendo spunto da questo incontro che c'è stato 10 giorni fa, il 31 di marzo, dando atto a chi politicamente si prende il carico e la responsabilità sociale di non limitarsi ad approvare una norma ma a verificare che poi venga attuata e a sollecitare tutti quelli per la cui attuazione sono necessari in un paese dove la norma le sta scritta sulla carta, se non viene poi applicata e se non si vigila sulla sua applicazione, a prendersi la responsabilità di farsi carico insieme alle associazioni di chi rappresenta coloro in difficoltà per dire: signori, la norma l'abbiamo approvata, ma noi la vogliamo soprattutto realizzata e rispettata. Questa formazione politica è quella del Movimento 5 Stelle, che appunto ha aperto questo tavolo tecnico per sollecitare, ed è con noi per parlarne Francesco Cariello, che è membro per 5 Stelle della Commissione Bilancio della Camera. Grazie di essere con noi, onorevole Cariello. Buonasera a tutti i radiospettatori e buonasera a lei, Gianluca. Allora, è anche con noi per parlarne Altro Consumo è una delle sigle appunto che hanno partecipato a questo tavolo e che si occupano della rappresentanza di chi è in difficoltà nei confronti del pagamento delle banche, e con noi Silvia Castronovi, che è il direttore delle relazioni istituzionali di Altro Consumo. Buon pomeriggio anche a lei, Silvia. Buon pomeriggio a lei, direttore, e ai radioascoltatori. Non sono il direttore, mi occupo di relazioni esterne istituzionali. Perdono per il mio errore. Allora, Cariello, cominciamo dallo stato degli atti. Ricordiamo a chi ci ascolta in cosa consiste quella norma e ricordiamo perché avete preso questa iniziativa e che forme ha, dove vuole arrivare. Sì, allora l'iniziativa è stata presa in funzione di quella che è l'attuale condizione del nostro paese. Quindi abbiamo una situazione disastrosa con scarsa liquidità a disposizione di imprese e famiglie, e quindi all'interno di questo contesto noi abbiamo rimesso in piedi una norma che intanto, per quelle che sono le forme utilizzate in passato, ha già dimostrato di poter suscitare una iniezione di liquidità per investimenti e consumi. Parlo delle precedenti moratorie, ma quelle erano solo un esempio, un test già effettuato sul campo. La nostra norma invece andava ad introdurre un diritto su tutti i mutui e i finanziamenti in essere, che è il diritto del mutuatario di poter sospendere il pagamento della quota capitale. Questo è il nostro obiettivo, guardando sia a una platea di mutuatari o comunque di famiglie e piccole e medie imprese che sono in difficoltà, ma soprattutto a quella stragrande maggioranza di imprese che continuano ancora a pagare nonostante le difficoltà e il contesto disastroso del nostro paese. Ricordiamo anche che sono usciti proprio l'altro ieri i numeri aggiornati dell'andamento delle concessioni di credito nel nostro paese, e l'andamento continua ad avere un segno meno 2%, addirittura nell'ultimo mese è peggiorato rispetto al mese precedente, che era -1,8% rispetto all'anno precedente. Questi sono i dati ufficiali, quindi, che confermano quello che lei sta dicendo. Prego. Esatto, quindi guardando fondamentalmente alla parte buona del paese, che ancora ha voglia di restare in questo paese, di produrre in questo paese e di rilanciare e quindi di sviluppare quanto di buono c'è nel nostro paese, noi tramite questa iniezione di liquidità vogliamo dare a loro questo potere, il potere di poter andare dalla propria banca sul proprio mutuo e poter richiedere semplicemente la sospensione del pagamento della quota capitale, che, attenzione, ha comunque un costo per il sia per il consumatore che per l'impresa. Il costo relativo alla quota interessi che nel periodo della sospensione comunque dovrà pagare. Ma se l'impresa, prendiamo ad esempio un'impresa che con quel denaro aggiuntivo e con quella liquidità che riuscirà ad ottenere riesce a fare investimenti che rendano anche l'1%, il 2% di più di quanto paga la banca, ha già determinato una leva finanziaria per la sua impresa notevole, e quindi un'iniezione di fiducia e di speranza in tutto il territorio del nostro paese, che è caratterizzato dalle piccole e medie imprese. Per non parlare delle famiglie, le famiglie hanno sì magari onorato tutti i propri debiti, ma come? Facendo magari leva sul proprio risparmio o su quanto disponibile nelle proprie famiglie. Quindi le difficoltà magari la banca non le ha viste, la rata è stata comunque pagata, ma parliamo di famiglie comunque in difficoltà e bisognose di liquidità per poter magari fare altre spese, altri consumi che magari in questa situazione non hanno potuto fare. Con questa norma noi intendevamo dare proprio al mutuatario, quindi cambiare la prospettiva, poter dare in mano al mutuatario stesso la possibilità di scegliere: dal prossimo mese io ho questa possibilità che me la dà la legge, una norma dello Stato che mi permette di decidere se sospendere o meno la quota capitale. Naturalmente per maggiore informazione si abbasserà notevolmente. Per maggiore informazione, aspetti, la norma che avete proposto e che è passata, la maggioranza l'ha fatta proprio nella legge di stabilità, prevede questa sospensione del pagamento appunto della quota capitale per gli anni dal 2015 al 2017, e lo aggiungo, cosa che per me non è proprio secondaria, Questa norma l'avete proposta ed è stata accolta esplicitamente senza oneri per la finanza pubblica, quindi, ed è molto chiara a leggere la legge di stabilità, cioè la facoltà di accedere alla sospensione del pagamento della quota capitale resta ovviamente a carico di beneficiare della quota interessi. Il problema è di evitare però che ci siano delle restrizioni da parte delle banche nel consentire l'applicazione di questa norma di legge che si deve alla vostra iniziativa. E a questo punto che cosa è successo? Lo chiedo direttamente a Silvia Castronovi. È successo che invece per l'attuazione di questa norma, che è chiarissima, l'ABI ha proposto alle sigle dei consumatori una intesa che molti di voi non hanno sottoscritto. Perché? Non l'abbiamo sottoscritta perché ci sembrava un po', mi scusi il paragone, avere a disposizione una motocicletta e voler per forza andare a pedali. Nel senso che, come ha detto l'onorevole Cariello, che è poi l'estensore, chi ha scritto effettivamente la norma, quindi la può interpretare autenticamente, ha una portata di un respiro molto più ampio di quello che era poi la proposta di accordo fatto con ABI, passando da dei tavoli di confronto ai quali abbiamo anche partecipato noi come Altro Consumo insieme alle altre associazioni dei consumatori, e che restringeva notevolmente la portata stessa della norma, come abbiamo sentito, e la validità e lo scopo della norma stessa. Perché le banche in realtà che cosa vi hanno proposto? E l'ABI ci ha proposto un accordo che praticamente riduceva inspiegabilmente i termini, li portava da una sospensione da 3 anni, come prevede la norma, che viene proprio specificato nel testo della norma del 2015 al 2017, veniva ristretta ad un anno solo. Venivano esclusi dalla misura delle cessioni, delle misure di finanziamento che non erano escluse dalla norma stessa, come le cessioni del quinto, il credito revolving, l'apertura di credito, il credito al consumo o di durata superiore a 24 mesi, tutti finanziamenti che, come ben si può capire, sono quelli più fatti poi dalle famiglie, certo, no? E sono i piccoli prestiti, i piccoli finanziamenti a quale si occorre per una spesa improvvisa. Che venivano escluse questo. L'hanno esclusa, e poi sono stati esclusi tutti quei prestiti che sono collegati ad una polizza vita, e oggi come sappiamo è rarissimo che non venga, certo, effettuato un prestito, un finanziamento senza che vi sia una polizza collegata, anzi a volte spesso i prestiti vengono fatti più per diciamo per piazzare tra virgolette una polizza che per fare il prestito stesso. E inoltre venivano indicate per la richiesta della sospensione, ripeto, della quota capitale, non degli interessi, quindi non si sta facendo regalo a nessuno, ripetiamolo questo concetto, degli eventi che non erano assolutamente esclusi dalla portata della norma, così che non prevede previsto. Appunto, quindi, l'articolo 1, il comma 246 della legge. Allora, ha dato una raffigurazione chiara del come e del perché le banche abbiano risposto tentando di eludere in larga misura la portata di questa norma. Torno all'onorevole Cariello. A questo punto voi vi siete posti un problema, cioè quello di che si lanciasse un segnale istituzionale e politico forte nei confronti di questa proposta delle banche, ma quale può essere? Guardi, mi permette di dire, noi abbiamo fatto quello che il governo non ha fatto per 90 giorni, perché la norma, il testo era chiaro, parlava di almeno 90 giorni entro i quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico dovevano indire un tavolo tecnico di confronto tra le varie parti. Che sono scaduti, perché siamo ad aprile. I termini sono scaduti, ma in assenza di una qualsiasi azione da parte del governo, chi l'ha fatta da padrone in questo frangente è stato proprio l'Associazione Bancaria Italiana. E quindi in questa situazione l'ABI ha redatto delle bozze di accordi, e nella fase di creazione di queste bozze nessuno ha mai visto l'evolversi appunto dei termini inclusi negli accordi. Alla fine, alla scadenza dei 90 giorni, hanno proposto queste bozze già firmate, e non si è capito poi se le firme insomma sono arrivate da tutti o da quasi tutti, o mascherata da parte e detta magari per tutti. Quindi in questa situazione... Ma le bozze, le bozze firmate da chi? Allora, le bozze intanto chiariamo una cosa per i radioascoltatori, le bozze sono due. L'ABI ha proposto un accordo per le piccole e medie imprese, o comunque per il mondo delle imprese, firmato da Rete Imprese, da Confindustria, da tutte le sigle di categoria un po' più rappresentative. Certo. E poi ha proposto un accordo per i consumatori sottoscritto soltanto da alcune sigle. Esattamente. No, volevo che lo dicesse esplicitamente, perché ci tengo, siccome questa è una radio di Confindustria, a far capire a chi ci ascolta che me ne sto allegramente fregando del fatto che l'editore è d'accordo con l'ABI, però qui c'è una questione di legge da applicare nei confronti di tutti. La legge è chiarissima e quindi non può essere elusa. E per quello che mi riguarda, mi dispiace per Confindustria, ma io sono in dissenso totale rispetto alla firma sottoscritta nella parte del protocollo che riguarda le imprese restrittiva, come abbiamo raccontato. Questo perché ovviamente devo dirlo esplicitamente, assumendomi le mie responsabilità. Adesso torniamo alla faccenda, perché c'è un diluvio di telefonate da far commentare a Silvia Castronovi di Altro Consumo e onorevole Cariello dei 5 Stelle, che è l'estensore della norma approvata in legge di stabilità, e anche che si è preso in carico l'idea di fare il tavolo tecnico il 31 marzo con le sigle dei consumatori e di chi rappresenta i mutuatari, che quel testo dell'ABI, secondo me, con piena giustizia, non lo hanno sottoscritto. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta a 16:48, primi 25 secondi. Stiamo parlando della norma proposta da 5 Stelle, approvata in legge di stabilità, che consente l'ammissione al beneficio della sospensione del pagamento della quota di capitale, il che non significa essere esentati ovviamente dalla norma degli interessi delle rate per mutui e prestiti per gli anni 2015 e 2017. È trascorso il termine previsto dalla norma per farla entrare in vigore con un protocollo di attuazione, o meglio, l'ABI all'ultimo secondo ha tirato fuori due proposte, una per le imprese e una per le famiglie, sottoscritte da associazioni di impresa, ma molte altre sigle di consumatori non l'hanno firmata perché il testo dell'ABI è molto più ristretto rispetto alla chiarezza e all'estensione invece per la missione e benefici del testo di legge. E su questo il Movimento 5 Stelle, doppia cosa positiva secondo me, ha riunito un tavolo tecnico dicendo no, la legge va rispettata. Sentiamo un po' di telefonate con le vostre opinioni. Giuseppe dalla provincia di Modena. Prego Giuseppe. Ecco, volevo sottolineare la necessità anche di imporre che questa norma non vada ad incidere sulla capitalizzazione delle banche a livello di Basilea 3, nel senso che poi non ci sentiamo l'Unione Europea dire dovete procedere a ricapitalizzare le banche, perché questi mancati pagamenti devono essere messi tra virgolette a perdita. No, attenzione però, in questo caso per effetto della norma, cioè per la diluizione attraverso sospensione temporale del rientro delle quote di capitale senza rinunciare agli interessi, questo non porta a aprire la procedura automatica di incagli e sofferenze, quindi da questo punto di vista la sua preoccupazione, che comprendo e anzi approvo, ci mancherebbe altro, tecnicamente però non è fondata. Sentiamo Stefano da Pordenone. Stefano, prego. Stefano, ci sei? Pronto? Eccoci. Pronto? Sì, dica. Buonasera, io sottolineo solo un aspetto tecnico. Se il piano di ammortamento di un mutuo è a francese, per la prima metà del finanziamento, che duri quanto duri, si paga più di quota capitale e quota interesse. Mi spiego, o meglio, scusi, il contrario. Se la rata è da 300 euro, nei primi anni avrò il primo mese 299 euro di interessi, 1 euro di capitale, esatto. 298 di interessi, 2 euro di capitale, e a scendere così. Ora, se viene applicata questa norma, l'effetto, se si parla di finanziamenti iniziati da poco, è veramente minimale. Seconda cosa, esiste già una norma del genere, perché si possono già fare le sospensioni di quota capitale sui mutui per 6 o 12 mesi a disposizione dell'istituto. Esatto. Tutto qua, grazie, complimenti. Cariello, qual è la risposta a Stefano che dal bancario ci fa notare che in tutta la parte iniziale degli ammortamenti in realtà l'allevamento dell'onere finanziario è basso? Sì, se guardiamo alle rate o ai piani di ammortamento che sono all'inizio, è chiaro l'impatto è lieve. Ma se guardiamo invece alla stragrande maggioranza dei mutui in essere, che magari la hanno quota cresce. Superato almeno la metà, o comunque sono in oltre la parte di mezzo, insomma, dove la quota interessi supera la quota capitale, in quel caso, o meglio il contrario, in quel caso sicuramente la rata si abbatte. Ma io vorrei tornare più che altro alla visione che era alla base della norma stessa. Allora, e collegandomi anche a quanto aveva richiesto il precedente radioascoltatore, in realtà la norma non va a guardare ai mutui performing o non performing, cioè non si pone in una situazione limitata. La norma va ad agire su tutta la platea dei mutuatari. Quindi, in questo caso, se esistono già leggi che permettono ai non performing, o a quei mutui che sicuramente sono in caglio, magari in rate non pagate, esatto, da più di 90 giorni, in quel caso, che sono già delle sofferenze, in quel caso ci sono altre forme di sostegno e di assistenza che lo Stato ha creato, e ci sono dei fondi appositi. Esattamente. Anche fatti per quella tipologia di sospensione. Noi con la norma andavamo invece ad agire piuttosto a quella fetta dei mutuatari che è un buon pagatore, sia alle imprese in bonis che ai consumatori che sono in bonis, cioè tutti coloro che finora non hanno mai avuto un problema nel pagare, dandogli una leva finanziaria di liquidità aggiuntiva, esattamente, esatto, no, come aveva risolvere il problema del paese, e quindi di riflesso anche tutta l'altra fetta di beneficiari ne risentirebbe. Ok, sentiamo Ignazio da Palermo, prego Ignazio. Io volevo sollevare un altro tipo di problema che non so se poi è inerente a quello di cui state parlando. In sostanza, io ho utilizzato la legge che è esistita qualche anno fa, per sospendere, perché dà la facoltà di sospendere 1 o 2 anni il mutuo in essere. Io ero perfettamente pagatore, sempre stato pagatore regolarissimo, però mia moglie è venuta a fine di lavoro, quindi abbiamo utilizzato questa legge. Che cosa fa? Io ho fatto un mutuo di 20 anni, avevo pagato 5 anni regolarmente, ho sospeso i 2 anni, ho ripreso, difatti ora per altri 15 anni io pagherò circa il 10% in più della rata che pagavo prima. Quindi non lo so fino a che punto è stata una cosa. Sentiamo subito Silvia Castronovi su questo conto degli oneri cumulati che lei ci ha fatto. Silvia. Ignazio ha ragione, e queste sono misure che vanno valutate con molta attenzione. È vero che ci sono altri provvedimenti che hanno previsto la sospensione di mutui che finanziamenti, devo dire la verità, però questa norma che è stata introdotta adesso, della quale stiamo parlando, ha l'intento di estendere proprio la sospensione a soggetti che erano rimasti esclusi da misure del governo precedentemente. È ovvio che bisogna farsi due conti, e rispondo anche al signor Stefano che ha chiamato prima, e ha ragione che le quote di capitale all'inizio sono poco minime, di capitale, certo, e molto di interesse, certo, nei finanziamenti, ma bisogna vedere proprio la misura che più risponde alle proprie esigenze. Esattamente. Non è un regalo per nessuno, perché in questo triennio si dà la possibilità di ridurre la rata pagando solo gli interessi, e quello che non si paga ora lo si paga dopo con l'allungamento del piatto d'ammortamento, esatto, e con ulteriori interessi. Questo è ovvio, non c'è un regalo di nessuno. No. Chiarissimo, abbiamo fatto bene a ripeterlo, ma è chiaro, quindi non lo ripetiamo più, diamolo per acquisito. Domenico da Mantova, prego Domenico. Buonasera a tutti, buonasera anche al ragazzo dei 5 Stelle che tanto si occupano dei problemi delle persone, e alla signora che stava parlando. Io ho 48 anni e sono anche un pochettino arrabbiato. Perché io, quando ho contratto il mutuo nel 2005 con la mia banca, sono riuscito a pagare fino al 2012. Mm. Dopodiché sono riuscito ad ottenere la sospensione del mutuo per un anno e mezzo. E ho ripreso a pagare. Mi trovo ora nelle condizioni di non poter più pagare, e nella fattispecie non è il problema non è più nella quota capitale e quota interesse. Il problema è in una vera sospensione, ovvero sia moratoria, di tutte quelle persone che hanno contratto mutui, che non ce la fanno più a pagare neanche la quota capitale o la quota interesse, perché sennò altrimenti è un cane che si morde la coda. Se non c'è una moratoria nazionale, internazionale, mettetela come volete voi, e tutti questi debiti devono passare sotto l'egida della Banca Centrale Europea, visto che siamo in Europa, e la Banca Centrale, io pago la bellezza di 1.850 euro al mese ad un tasso all'incirca dell'8-9%. Perché se la Banca Centrale Europea presta i soldi all'1% io devo pagare l'8%? La Banca Centrale Europea mi deve rifinanziare a me all'1%, dare i soldi. Lo so, però qui ci stiamo allargando, perché il problema è che naturalmente la BCE può intervenire per rendere meno occlusi i canali di trasmissione della politica monetaria, e quindi lo fa attraverso gli intermediari, cioè attraverso le banche, non direttamente attraverso gli operatori, le famiglie, le imprese e così via. E quindi questo è un altro problema ancora, per così dire. Beh, il tempo per oggi è esaurito. Torneremo però a rendervi conto di questo tavolo aperto alle 5 Stelle con l'Associazione dei Consumatori. Intanto grazie onorevole Cariello, a Silvia Castronovi di Altro Consumo, e appuntamento dalle 10 alle 12 domani con i conti della Belva.